La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. E ritrovati amici alla Rosa Purpurea, allora settimanale di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi. Siamo arrivati al nostro momento di approfondimento sulle novità al cinema e sull'attualità. Una puntata molto ricca, tanti film, molti film di cassetta, molti film interessanti, interviste, un grande maestro dell'horror che ci aspetta come George Romero, ma prima di tutto, come facciamo ormai da qualche settimana, il gioco con la Pixar, perché è ormai imminente, il 23 novembre comincia la mostra sui 25 anni della Pixar al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, una mostra alla quale noi stiamo partecipando come media partner e nella quale la Rosa Purpurea da qualche settimana vi propone un gioco: indovinare un film della prestigiosa storia Pixar per vincere 3 biglietti per 2 persone per andare a visitare la mostra. E allora sentiamo qual è il film Pixar di questa settimana. Ho iniziato dal bebè. L'ho tagliata un po' comoda per facilitare i movimenti. Il tessuto è confortevole, adatta a pelli delicate. E all'occorrenza può sopportare temperature di oltre 1000 gradi. Beh, una voce totalmente inconfondibile e soprattutto un personaggio scolpito nella storia dell'animazione, non solo. Ho conosciuto un po' di persone di questo ambiente, non voglio andare oltre, sono veramente così. Questa è una cosa straordinaria. Allora, diteci di che film Pixar si tratta. I più veloci, e ricordatevi sempre di mettere anche il vostro indirizzo, del sabato e della domenica riceveranno un totale di 3 coppie di biglietti per andare a visitare la mostra al PAC. Poi sarete contattati dalla nostra segreteria per l'esito di questo gioco. La settimana scorsa avevamo giocato con una clip che era quella di A Bug's Life, un altro dei film Pixar. Hanno indovinato tra gli altri Matteo Rustici di Gadesco Pieve del Mona, spero che sia questo il nome giusto di questo paesino in provincia di Cremona, Marco Gusmeroli o Gusmeroli di Ossagolo di Giano e Paolo Bianco di Monza. Saranno loro a ricevere i biglietti, a essere contattati per una coppia di biglietti per visitare la mostra Pixar, 25 anni di Pixar al PAC, Padiglione Arte Contemporanea di Milano, dal 23 di novembre all'1 febbraio. E allora settimana prossima sarà il momento poi di sentire qui alla Rosa Purpurea il patron Pixar, il creatore, insieme a Steve Jobs tra l'altro, John Lasseter. Adesso chiudiamo la parentesi Pixar, dedichiamoci alla Rosa Purpurea, dedichiamoci alle uscite e all'attualità cinematografica e riassumiamo i contenuti della puntata nei titoli di testa. Da La notte dei morti viventi alla città verrà distrutta all'alba. Intervista esclusiva a George Romero, il maestro dell'horror americano che con l'invenzione degli zombie ha rivoluzionato il cinema del terrore. Vampiri, amore e licantropi. Con i tradizionali ingredienti torna nei cinema italiani la saga di Twilight. Il quarto capitolo, Breaking Dawn, è il penultimo della serie. Commenti e reazioni del pubblico alla Rosa Purpurea. Shakespeare era un poeta o un impostore? L'esperto in Colossal, Roland Emmerich, firma Anonymous per svelare il mistero che si celerebbe dietro la firma del più acclamato drammaturgo di sempre. Gli americani dicono take it easy, gli adolescenti nostrani shall, che è più o meno la stessa cosa. Convince il film di Francesco Bruni, presentato a Venezia e da questo weekend nei cinema, con un irresistibile Fabrizio Bentivoglio. E allora cominciamo subito con i vampiri. Arriva nei cinema italiani il quarto e penultimo episodio cinematografico della saga di Twilight. È l'ultimo capitolo diviso in due. Un film quest'anno, un film l'anno prossimo. Si comincia con Breaking Dawn. Grande attesa da parte dei fans. Film nelle sale già da qualche giorno. Lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Io, Edward Cullen, prendo te, Bella Swan, per amarti e onorarti fino a quando entrambi vivremo. Il quarto film della saga vampiresca di Twilight, Breaking Dawn parte 1, si apre con le attese nozze fra Bella e il vampiro Edward nella disperazione del licantropo Jacob. Seguiranno luna di miele e immediata in attesa gravidanza. Non è possibile. Il feto è incompatibile col tuo corpo. È troppo forte e cresce in fretta. Ti sta uccidendo dall'interno. Non sappiamo cosa hanno generato. Dobbiamo proteggere la tribù ad ogni costo. Si sta nutrendo di te. Così ti perderò. Devi accettarlo. Tu non mi hai dato scelta! Il trailer racconta già l'intera storia del film, diretto da Bill Condon, quarto regista ad avvicendarsi nella serie, ed è solo l'anticipo del finale, visto che l'ultimo libro di Stephanie Meyer è stato diviso in due sul grande schermo per raddoppiare marketing e incassi. Più si va avanti, più la serie sembra cucita addosso esclusivamente al pubblico dei fan e agli adolescenti, con un risvolto che dal casto moralismo dei primi capitoli vira verso una crudezza sanguinolenta. Se fino a un film orsono i due appena si sfioravano, qui c'è un matrimonio a 18 anni per consumare un unico rapporto sessuale di cui non si vede nulla, una gravidanza calvario difesa dalla madre quando tutti pensano all'aborto e un parto truculento. Un manifesto di conservatorismo condito di sospiri dei tre protagonisti, Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner. Le fan in sala sono meno focose di un tempo. La saga, pur trascinandosi, però ancora le trascina al cinema, almeno per vedere come va a finire. Si può aspettare anche più in là, nulla di che. A me è piaciuto molto. Perché abbiamo letto tutti i libri e eravamo emozionati, non potevamo perdercelo. Io li ho visti tutti e mi sono piaciuti tutti. Spero che sia bello anche il prossimo. A me è piaciuto tantissimo, anche gli altri. Per esempio il 3 dove c'era tutta la lotta, no. Però quando ci sono le storie d'amore tra Bella e Edward, sì. Sì, tantissimo. Personaggio che ti piace di più? Bella. Robert Pattinson. È stato crudo. Diverso dagli altri. È bella la storia. Alla fine vi è piaciuto? Andrete a vedere il prossimo o no? Sicuramente. Sì, sì, sì. La rosa purpurea. Ma se io vi dicessi che Shakespeare non ha mai scritto una sola parola? Ecco, questo è l'interrogativo con il quale apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea, ed è l'interrogativo che sta al centro, anzi più che un interrogativo sembra una certezza per Roland Emmerich, il regista, che sta al centro di Anonymous, l'altro film, il secondo film di cui vogliamo parlarvi in uscita questa settimana, perché il film parte da un assunto, cerca di rispondere a una domanda, ma avendo già una tesi, la risposta è sì. Shakespeare era davvero quello che crediamo o invece piuttosto era un millantatore? Nel film, affidato appunto alle mani un po' ruvide di Roland Emmerich, regista più a suo agio con i colossal catastrofisti, ricordiamo Independence Day 2012, tanto per darvi qualche cenno, e qui certo alle prese con un colossal in termini visivi, un film di grande impianto, di grandi masse, di grandi spazi, ambientato nella Londra appunto di Shakespeare, qui cerca di mischiare il thrilling, l'azione, il sospetto, l'intrigo, con però una capacità forse limitata soprattutto sulla parte dei dialoghi e direi anche un po' della direzione degli attori, ma insomma il tema è anche abbastanza affascinante, se vogliamo. La corte inglese, britannica, elisabettiana dell'Inghilterra cinquecentesca, nella quale scrivere per il teatro è praticamente una cosa disdicevole, spregiata, soprattutto se si è il duca di Oxford, perché questo è il tema. Il tema è: il duca di Oxford era un uomo talmente raffinato che sapeva scrivere quello che conosciamo oggi firmato da William Shakespeare, ma siccome era disdicevole scriverlo per il teatro se si era il duca di Oxford, ecco che aveva preso una sorta di prestanome, che era una persona anche abbastanza spregevole, una persona senza scrupoli, che si chiamava davvero William Shakespeare, ma che faceva tutt'altro, non sarebbe stato capace di mettere in rima neanche due parole. Su questo equivoco palese durante il film si basa tutto il racconto. Come abbiamo detto, un racconto che prende le mosse da questo, ma si tinge e si riempie di molta azione, di molti duelli, irruzioni della polizia nel Globe, nel teatro shakespeariano. Ecco, questo è un po' il respirare di questo film. Un film action, nonostante si parli di poesia, di letteratura e della sofferenza di un uomo che non poteva firmare con le proprie parole, non poteva farsi conoscere dal mondo per quello che era un grandissimo poeta. Nel mio mondo non si scrivono commedie, lo fa gente come voi. Tradimento. Will non è nemmeno uno scrittore. Mistero. Allora chi ha scritto Amleto? Passione. Io so che cosa hai fatto. La più grande cospirazione di tutti i tempi. Will Shakespeare, impostore, è un agguato! Tu hai causato questo. Dio salvi la regina! Shakespeare, un inganno che dura da secoli. Promettimi di mantenere il nostro segreto. Anonymous. Peraltro la tesi sposata a piene mani da Roland Emmerich va presa un po' con le pinze, insomma ci sono molti libri che raccontano di questa possibile inversione, diciamo, di nomi di qualcuno che stesse dietro il nome William Shakespeare, ma per Emmerich, anche in alcune interviste che ha rilasciato, questa sembra essere una certezza. Dice: per molti anni ho letto questi libri, mi sono convinto che le cose stanno davvero così. Forse bisognerebbe porsi qualche dubbio in più, anche perché questo Anonymous, insomma, poi in termini cinematografici sembra stare alla storia e alla delicatezza della storia di Shakespeare un po' come se fosse Godzilla, cioè ci sta in termini molto fisici, molto dentro, molto sanguigni e anche sanguinolenti in certi frangenti. Forse una mano un po' più leggera avrebbe lavorato meglio su questo film, che tra l'altro è molto molto intricato nella trama. Attenzione, non è facile da seguire, si salta a livello temporale con i personaggi che invecchiano e ringiovaniscono e con dei legami che non sono sempre chiarissimi. Quindi un film, tra l'altro, che dura anche 130 minuti, da seguire con grandissima attenzione. Un'occhiata solo al cast, dove ci sono attori tutti inglesi, li ha voluti così Emmerich, di grande livello. Ne cito solo alcuni: Rhys Ifans nei panni del conte di Oxford, Vanessa Redgrave, Elisabetta, Derek Jacobi, e ce ne sono tanti altri, insomma, che sono di grandissimo livello. Questo è Anonymous nei cinema italiani da questo fine settimana. Oh, adesso è arrivato il momento di giocare con il nostro solito, consueto DVD / Blu-ray game, insomma il film che vi permette di vincere degli splendidi DVD o Blu-ray. Oggi giochiamo con uno straordinario capolavoro italiano, sentiamo. No, eccellenza, io avevo votato per il no. No, 100 volte no. Sì, va bene, eccellenza, lo so quello che mi avevate detto. È la necessità, l'unità, l'opportunità. E forse avevate ragione voi. Io di politica non me ne intendo e lascio queste cose agli altri. Io direi che già l'accento di questa clip dovrebbe aiutarvi a capire di che film si tratta. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Provate a dirci di quale film si tratta per provare a vincere una splendida edizione di questo film. Fra poco ci saranno altre due possibilità. Ebbene, cambiamo pagina, cambiamo film per un'operazione molto molto singolare che arriva dall'estremo oriente, che cita molto del grande cinema western italiano su tutti Sergio Leone, ma che lo mixa con una comicità a tratti anche surreale. Stiamo parlando del Buono, il Matto, il Cattivo, un film realizzato in Corea nel 2008 e che trova la via della sala in Italia solo 3 anni dopo grazie all'attacco. Ascoltiamo la clip. Questa è la mappa di un tesoro. Devo correre per dritto oppure è meglio che io corra un po' di qua, un po' di là, così li confondo. Hai tu la mappa o no? Anche tu cerchi la mappa, eh? E allora, questa è la clip, avete sentito, si parla di una mappa, è un film effettivamente che è quasi un horse movie, potremmo dire, cioè un road movie a cavallo, che, come dicevo, cita molto della lezione del grande western all'italiana, ma che lo mixa con altri ingredienti. Siamo in collegamento con Boris Sollazzo, che al quale chiediamo proprio di raccontarci un po' questo film e di raccontarci innanzitutto perché è arrivato 3 anni dopo in Italia. Temo perché comunque sia estremamente complicato per la fruizione, insomma sono quasi 140 minuti, è un film molto carico e credo che costasse anche qualche soldo, perché di sicuro dopo aver visto il film l'impiego delle risorse è evidente per quanto riguarda scenografia, per quanto riguarda campi lunghi, scene di massa, quindi molto probabilmente ci ha messo banalmente 3 anni a perdere di valore e quindi in qualche modo ad essere appetibile per una casa di distribuzione indipendente come la Tucker, che fa venire spesso in Italia cose molto interessanti. Nel caso del Buono, il Matto e il Cattivo è sicuramente un'operazione interessante, perché è davvero un omaggio a Sergio Leone sperticato, basta vedere la scena finale, che è davvero una fotocopia, anche se forse un po' più tragicomica. Kim Jong-un fa un film che a mio parere ha sicuramente un appeal commerciale in Estremo Oriente, molto meno qua, anche per un'edizione in doppiaggio che secondo me accoppia volti e voci non in maniera brillante, e comunque per un montaggio che fa sì che, per quanto possa essere un film di azione con grandi scene anche molto interessanti, momenti di comicità, la lunghezza comunque si fa sentire nella complessità della fruizione. È sicuramente un film molto simpatico, non mi arrischierei a consigliarlo, perché deve essere veramente per amatori, per appassionati di western e per appassionati di un certo cinema commerciale dell'estremo oriente, quindi insomma molto settoriale, ecco, Il buono, il matto e il cattivo. E allora, grazie Boris, quindi un consiglio per chi magari vuole arricchire il suo la sua cultura di western all'italiana, per vedere una sorta di spin-off, potremmo chiamarlo, e anche per chi ama ovviamente il cinema orientale, vedere quanto insomma i nostri maestri classici come Sergio Leone abbiano fatto lezione anche da quelle parti. Ciao Boris, appuntamento alla prossima settimana. Un saluto Franco a tutti gli ascoltatori. E allora, dopo aver parlato anche del buono, il matto e il cattivo, io do un'occhiata alla classifica, perché i soliti idioti, al di là dei meriti cinematografici su cui abbiamo già detto, sta andando veramente alla stragrande. È il primo grande successo, piccolo blockbuster potremmo dire, di questa stagione. Siamo arrivati alla fine della scorsa settimana, compreso lo scorso weekend, quasi a 9 milioni di euro, primo posto super conclamato alla sua seconda settimana in sala, seguito da Immortals di Tarsen Singh, che sorprendentemente fa quasi 2 milioni nel primo weekend, quindi un film da seguire con attenzione. Così come si piazza al terzo posto il Re Leone in 3D, la riedizione in 3D del Re Leone, che evidentemente ha ancora i suoi aficionados con 1,5 milioni nel primo weekend. Scende La peggior settimana della mia vita, che però veleggia verso gli 8,2 milioni, quindi siamo in zona 10 milioni, anche questo film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi sembra rinverdire insomma un po' un inizio di stagione che è stato abbastanza devastante sotto il profilo degli incassi, che sono stati molto bassi a settembre e anche per buona parte di ottobre, si stanno riprendendo proprio adesso arriverà poi ovviamente anche l'ondata dei vampiri di Twilight, quindi come dire, gli esercenti saranno felici. A proposito di esercenti, un saluto a Lionello Cerri, che è il nuovo presidente dell'ANEC, Associazione Nazionale degli Esercenti di Cinema. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme, terza parte della Rosa Purpurea. Sono molto felice di parlarvi di un film italiano, a mio modo di vedere probabilmente alla fine della stagione sarà una delle cose più belle che saranno arrivate dal cinema italiano. Parliamo di scialla. Allora andiamo subito a vedere il dizionario. Chi è più giovane ovviamente saprà già cosa significa, ma il dizionario dice tranqui. Ecco, questo è il dizionario dei giovani. Scialla uguale tranqui, cioè stai tranquillo, stai sereno. È un modo di dire molto molto usato nel gergo giovanile, come dire stai calmo, non preoccuparti. Ed è anche un po' il clima che pervade questa pellicola, firmata da Francesco Bruni, grande sceneggiatore che finalmente si siede dietro la macchina da presa con un film che ha un'alchimia davvero riuscita, un film che non è mai troppo predicatorio, non è mai troppo sentimentalista, eppure fa ridere e sorridere senza rinunciare ai contenuti, senza rinunciare a dire qualcosa. Merito anche di uno straordinario Fabrizio Bentivoglio, uno dei suoi ruoli più riusciti, penso in carriera, sinceramente, con questa giovane scoperta, Filippo Scicchitano, nei panni del figlio. Sì, perché Bruno Beltrame, interpretato da Bentivoglio, è un professore di italiano, ma è anche uno scrittore che si accontenta di fare il professore, potremmo dire, rimasto però ormai a fare biografie, libri per gli altri, scrive libri degli altri, diciamo così, calciatori, personaggi televisivi. Sta scrivendo adesso, durante appunto il racconto del film, quello di una famosa pornostar, appunto interpretata da Barbara Bobulova. La sua vita va avanti, appunto, scialla, tra un calicetto di vino, tempi molto molto lunghi, senza grandi grovigli né sentimentali né familiari, quando ecco che arriva una sua vecchia fiamma e gli ricorda, anzi gli dice, gli rivela che ha un figlio, che ha un figlio che si chiama Luca, ignorante come una bestia, liceale, che però dovrà tenersi, sorbirsi per 6 mesi, perché la donna deve partire, siccome il padre è lui, ecco che dovrà occuparsi di questo Luca. Il professor Beltrame, di fronte a questa cosa, tentenna un po', ma non può fare altro che mettercisi insieme, portarselo a casa, e come potete immaginare, fra il professore un po' indolente e anche un po' rassegnato, e questo giovane di grandissima vitalità, anche di arguta intelligenza, ma come dicevamo veramente molto, molto grezzo sotto il profilo culturale, ecco che nasce una scintilla, che ovviamente è quella che muove in avanti il film. Per raccontarvi un po' quello che è l'alchimia e perché questo film funziona, perché non ci sia mai la lacrimuccia che spunta o la predicozza che arriva, io vi voglio far ascoltare una clip piuttosto lunga, ma davvero molto esilarante. Sentiamo. Allora, ricapitolando brevemente, Achille è molto arrabbiato con Agamennone, che gli ha rubato la sua schiava Briseide. Te lo ricordi questo? Sì, Achille ha dovuto abbozzare. Non proprio, anzi, è molto arrabbiato, tanto che si rifiuta di combattere e i greci senza Achille subiscono l'assalto dei troiani. E te credi, è come giocare derby senza il capitano, non dovi? Esattamente. Allora, il suo amico Patroclo, te lo ricordi Patroclo? Cosa fa? Va nella tenda di Achille per cercare di convincerlo a tornare a combattere. Piange, si dispera e allora Achille gli risponde così, ascolta. Perché piangi Patroclo? Bamboletta sembri. Che dietro alla madre correndo la prega di prenderla in braccio e la trattiene attaccata alla gonna e i suoi passi impedendo... Saltate il frocio. No, che c'entra? Anche Achille sa per questo, non disdegnava. Achille era frocio. Nell'antica Grecia l'omosessualità era una cosa comune, soprattutto fra i nobili, essendo una società fortemente maschilista. Non ci posso credere, Achille e Patroclo che si ingroppano. Vabbè, allora arriviamo. E allora ridiamo, dice Fabrizio Bentivoglio. Ecco il contrasto fra l'irruenza anche greve ma molto molto concreta del linguaggio del ragazzo e l'edulcorazione poetica di quella del padre barra professore. Ecco, sta qui proprio questa straordinaria vitalità, questa scintilla che poi anima il film dall'inizio alla fine. Andate a vedere Scialla, è un consiglio davvero, perché è un film che non vi lascerà indifferenti, vi lascerà molto molto molto felice. Come dice l'amico e collega Giancarlo Zappoli, è un film che ci fa ridere e sorridere con i neuroni in attività, e questa mi sembra che sia davvero la migliore definizione che si può dare a Scialla di Francesco Bruni da questo fine settimana nei cinema italiani. Oh, siamo arrivati alla seconda parte del game, allora sentiamo subito la seconda clip del film misterioso di oggi. Ragazzo mio, come sarò contento di rivederti. Anch'io, zio. Tancred, posso me la giovata uscire di qua? Scusatemi tutti, ma l'emozione mi ha fatto perdere la testa. Zio, mi sono permesso di portare qui l'amico Conte Capriaghi, che del resto conoscete già, venne alla villa insieme al generale. E quello laggiù è il mio bravo attendente. Il lanciere Moroni. La rosa purpurea a @radio24.it, diteci di che film si tratta più tardi, l'ultima possibilità. My name is Martin. I'm 84 years old. People think I'm crazy when I tell them how old I am. I'd like to be normal. I just have a sickness. The only way I can survive is by drinking blood. From the director of Night of the Living Dead, Martin, another kind of terror. E questa era la clip originale del trailer di Martin, uno dei film di George Romero quando aveva già fatto La Notte dei Morti Viventi, questo per introdurvi all'intervista con questo straordinario maestro del cinema horror. George Romero è stato ospite del Festival Science Plus Fiction di Trieste, ha tenuto una masterclass, ha tenuto diverse interviste, è stato un vero e proprio bagno di folla per questo regista che abbiamo potuto incontrare proprio a Trieste, per farci raccontare un po' un percorso della sua carriera e anche una sua visione sull'oggi. Allora sentiamo la nostra intervista esclusiva qui per La Rosa Purpurea a George Romero. Intanto un grande piacere avere qui George Romero, e volevo cominciare parlando un po' proprio del suo cinema e di quello che lui ha detto spesso, cioè del fatto che negli anni 60 soprattutto l'horror e le storie che ha raccontato Giorgio Romero, non solo lui, sono state rivestite di un carattere sociale, politico, forte, ci si sono viste delle metafore importanti. Ora, oggi l'horror sembra avere perso, cioè, proprio nel momento del suo massimo successo, sembra avere un po' perso invece quella carica sociale e politica, cioè sembra più uno spettacolo fine a se stesso. Come spiega lui questa cosa? Cioè, perché proprio nel momento in cui del massimo splendore commerciale non c'è più questo legame, si è perso un po' questo legame con la carica politica e sociale di questo genere? I think it's lost its social aspect over the years. Penso che l'horror abbia perso le sue connotazioni più sociali nel corso degli anni, ma penso che veramente poche persone facciano caso a questo aspetto. I filmmaker non si occupano più di inserire significati di alcun tipo in un film horror, influenzati soprattutto dai produttori, che vogliono solo rifare sempre gli stessi film. C'è un lentissimo incedere nell'horror di oggi, che non ha molta sostanza. Però nel suo ultimo film, volendola vedere con quest'occhio più politico, gli zombie si ribellano in maniera organizzata, cioè sono quasi si auto-organizzano una ribellione. È una metafora, secondo lui, che è stata colta come metafora anticipatrice delle varie ribellioni che sono scoppiate nel mondo. Pensiamo a quello che è successo nell'ultimo anno nel Nord Africa, per esempio. Cioè, se lo zombie siamo noi, cioè quello che siamo diventati, totalmente anestetizzati rispetto agli stimoli del mondo, eccetera, possiamo leggere in questo suo ultimo film, nella ribellione degli zombie, la ribellione in generale del genere umano che poi si è verificata negli ultimi mesi? No, certainly not in my movies. Sicuramente non nei miei film. Non penso che sia così. Come ho sempre detto, i miei zombie sono stupidi. Non hanno uno scopo. Stanno semplicemente lì. I miei film sono incentrati sui personaggi umani e su come essi falliscano nell'identificare i loro problemi. Non penso che gli zombie abbiano particolari significati. Non so, questi zombie a Wall Street mi è sembrata solo una mascherata da Halloween. È difficile per me vedere qualche connessione. Forse c'è qualcosa di punk in queste camminate zombie, fatte un po' in tutto il mondo. Ma non penso che sia una protesta. È semplicemente una cosa divertente. Lui è stato un regista di grande successo. Il successo è stato clamoroso e mondiale con i suoi Le notte dei morti viventi, insomma, i suoi primi film. È difficile immaginare che non abbia mai ricevuto grandi proposte da Hollywood, perché Hollywood lavora così, aspetta che qualcuno si affermi e poi gli dà una possibilità. Ci può raccontare quali film ha rifiutato? Ecco, nella suo desiderio di indipendenza, di rimanere un regista indipendente, quali film ha detto di no della grande Hollywood? It's not about refusing. I guess I've never sort of just taken a job. Non si tratta tanto di rifiutare qualcosa. Non volevo lavorare solo per lavorare. Volevo essere indipendente e Hollywood non si è fidata di me. Loro non vogliono qualcuno che possa interferire. Preferiscono quelli come Eli Roth, Zack Snyder, che firmano grandi successi. Allora ti danno un assegno in bianco, ma al contempo vogliono controllare tutto. E io non volevo lavorare così. Ho fatto comunque un paio di film con gli studios Orion. Dicevano che era un produttore director friendly, ma sono state due esperienze terribili e non sono più tornato indietro. Ecco, quanto al genere invece, certo, maestro dell'horror, prima c'era qui Dario Argento, mi viene in mente che è un ragionamento che si potrebbe fare anche per lui. Si è mai sentito intrappolato in questo ruolo di regista horror, perché poi è quello che lui voleva fare, che il pubblico gli chiedeva? Ha avuto voglia di fare altro? E se sì, che cosa? Cosa gli sarebbe piaciuto fare? Yeah, pretty much. Of course I'd like to do other kinds of films. Molto. Naturalmente avrei voluto fare anche film di un altro genere, ma ormai nella mia vita non ho più molto tempo per questo. Non posso andare in giro a cercare soldi per 5 anni. Non ho 5 anni da buttare via. Così preferisco stare dove sono e fare quello che so fare. Ma è una questione legata alla mia età e al tempo che mi resta per lavorare. Comunque sono riuscito a fare qualche film un po' diverso, come Knight Riders, oppure Martin, che non penso sia un film strettamente horror. Ho fatto una commedia romantica che si chiama Vanilla, oppure Jack's Wife. Ho provato altre strade, ma nessuna ha mai portato abbastanza soldi per far sì che mi invitassero a farne un altro. Mi sarebbe piaciuto però fare una versione di Tarzan, Potrei scrivere una sceneggiatura che magari qualcun altro potrebbe dirigere. A questo punto è l'unico modo per fare quel progetto. La rosa purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, le proposte cinematografiche da vedere o rivedere in televisione per rinverdire o ampliare la propria cultura cinematografica. Oggi facciamo un bel bagno di cinema francese, perché questo propongo, i palinsesti in chiaro e gratuiti del digitale terrestre, lo facciamo insieme agli amici del settimanale Film TV e in collegamento con noi c'è Giulio San Giorgio. Giulio, cominciamo subito dalla prima proposta, un film d'annata di Louis Buñuel. Esattamente, Bella di giorno, domenica su Re Movie alle 1.50, Severin, una borghese benestante, non ha rapporti con il marito, si nega alle avances di un amico, ma si prostituisce in una casa di appuntamenti dalle 14 alle 17. Uno dei capolavori di Buñuel, dove vengono messi a nudo i meccanismi identitari dei ruoli sociali, con una lucidità di sguardo impietosa, leggera, elegante, ma al contempo surreale, che disorienta continuamente lo spettatore mescolando sogno e realtà e concentrandosi su dettagli depistanti. E questo è quindi Bella di giorno di Louis Buñuel, Rai Movie 1.50 di domenica 20 novembre. Il giorno dopo Alain René con Cuori. Esattamente, Cuori su Rai Movie alle 9.45. Sei personaggi incrociano i propri percorsi sentimentali ed esistenziali sotto la neve che scende dal cielo di Parigi. René è interessato ai piccoli drammi dell'individuo, mette in scena personaggi cocciutamente intenti a diventare quello che non riescono a essere e lo fa con un'ironia tenera, con un gusto della teatralità e dell'artificio, come uno studioso che guarda con affetto umano le proprie cavie. E questo è quindi invece Cuori di Alain René, un film tra l'altro che non si vede moltissimo, quindi val davvero la pena recuperarlo, la mattina di lunedì 21 novembre su Rai Movie alle 9.45. Buon lavoro agli amici di Film TV e a Giulio San Giorgio. Grazie Franco, e la prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora siamo arrivati alla terza e ultima traccia del film misterioso di oggi, sentiamo. Quando l'esercito di Garibaldi si sciolse, si poteva scegliere. O ritornare a casa, o restare nelle armate reali. Lui, io, come tanti altri, abbiamo deciso di entrare nell'esercito vero. Con quelli lì non si poteva stare. Non è così, Cavriaghi? Mamma mia, che gentaglia. Uomini da colpi di mano, buoni per spalacchiare e basta. E allora la rosa purpurea a @radio24.it mi sembra davvero ormai chiaro di quale grande capolavoro del cinema italiano si tratti. Scrivetecelo per provare a vincere la nuova edizione di questo film. 7 giorni fa avevamo giocato con questa clip. Ho perso il mio apparecchio, il mio... Allarmi! Inippo! Inippo! Sommergibile giapponese! Senti, c'è un sommergibile. Ma quale? Giapponese! Tu! Nell'oceano, scemo! E allora abbiamo giocato col culto, vero, con il grande John Belushi, con 1941, Allarme a Hollywood, film che è stato indovinato da molti, ma su tutti e prima di tutti da Alessandro Chiatante di Carpaneto Piacentino, provincia di Piacenza, e da Pier Attilio Stea di Cuneo, che riceveranno l'edizione in DVD di questo film, del quale ci facciamo dire tutto dal nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, questo cult movie, grande follia produttiva di Spielberg del 79, torna disponibile su DVD grazie a Pulp Video. La qualità dell'immagine è abbastanza buona, sono accettabili sicuramente le tracce Dolby Digital italiano e inglese, ce n'è addirittura una migliore delle altre, che sicuramente quella inglese, insomma, gli effetti si sentono un po' meglio. Tra gli extra segnalo la presenza di scene omesse dal montaggio finale. Siamo in attesa che magari tra qualche mese, qualche anno, arrivi anche il Blu-ray, quindi la versione in alta definizione. E questo per quanto riguarda 1941, Allarme a Hollywood, il game della scorsa settimana. Parliamo invece dei film che recensiamo in questo weekend, le nuove uscite in home video, partendo da un film di questa stagione, uno dei film sulla carta almeno più particolari, soprattutto nello sviluppo della loro trama, I Guardiani del Destino. Siamo qui per farvi rispettare il piano, siamo autorizzati a fare solo questo. Le permettono di dirmi queste cose? Non mi stanno seguendo adesso? Dobbiamo monitorare il mondo intero. Non abbiamo il potere di seguire tutti in ogni istante. E c'è qualcosa nell'acqua che non ci fa vedere il vostro albero delle decisioni. Lei è un angelo? Il giovane David Norris esorcizza l'esistenza attraverso la politica, ma non riesce a spuntarla nella corsa all'elezione a senatore dello Stato di New York. Incontra per caso Elise, i due si innamorano, ma ciò va in contrasto col piano di un individuo denominato il Presidente, piano attuato da una schiera di altrettanto misteriosi personaggi che affinché si concretizzi il destino prefissato dei due occorre evitare che si incontrino nuovamente. Ma il caso li farà nuovamente incrociare e le vite di David ed Elise prenderanno una strada diversa, compromettendo il loro futuro già scritto, spingendole a realizzare quanto effimero sia il libero arbitrio. Dal racconto di Philip Dick, un affascinante thriller tra fantascienza e sentimenti, è di Universal l'uscita un video con un Blu-ray d'eccellenza per qualità tecnica di gran lunga superiore al DVD. Alcuni extra sono molto interessanti, tra cui segnalo su tutti sicuramente il commento del regista al film e scene tagliate ed estese. E per quanto riguarda invece la seconda scelta di questa settimana, ci trasferiamo in Oriente, ancora una volta con un film che è veramente una sorta di ecatombe a livello di morti e feriti. Si intitola 13 assassini. E così Ambei ha versato sangue per primo. Avrà messo del denaro in mano a quei Ronin squattrinati. Non è stato un vero attacco. Il suo scopo era indebolire la nostra forza. Anche per te era la prima volta. Ho fatto incontri con le spade vere in molte occasioni, ma è la prima volta che uccido un uomo. Nel Giappone feudale, il folle e potente Naritsugu, che anela a governare il paese, si sente libero di commettere ogni genere di carneficina, almeno sino a quando lo shogun, ovvero la più alta carica militare, non decide che è ora di porre fine alla barbarie. Incaricato segretamente della missione sarà un nobile samurai che guiderà un gruppo di abili combattenti in quella che appare da subito una missione suicida. Da Takashi Miike, un'opera di perfezione tecnica, vincente e truculenta avventura giapponese di cappa e spada per stomaci forti, presentata allo scorso Festival di Venezia. Da BIM con distribuzione 01 Rai Cinema, l'edizione è un video, Blu-ray è di eccellente resa, almeno per la parte video. C'è una doppia traccia audio DTS ad alta risoluzione italiana e giapponese, però segnalo che negli ultimi due capitoli la traccia italiana soffre per lo spostamento dei dialoghi sul canale anteriore destro. Come extra è presente solo il trailer. E questo è per quel che concerne invece 13 assassini. Allora grazie a Claudio Pofi, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E a questo punto noi abbiamo finito la nostra ora di cinema di questo weekend qui su Radio 24. L'appuntamento va a fra 7 giorni. Ci saranno ospiti con noi Ficarra e Picone per il loro nuovo film e quindi, insomma, come sempre, tutta l'attualità e tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti.